Stamattina un nuovo attentato, chi sarà stato, chi sarà stato? Tutti che postano, tutti che piangono, mangio un gelato, mangio un gelato. Stamattina ho visto il telegiornale, un ragazzo è morto andando a ballare. La gente ora scrive messaggi d'amore per farlo resuscitare. E non piangere amore mio, se vuoi c'è un posto accanto a me. Scrivi ti amo e clicca invio, c'è solo abbondanza di maschere. Je suis Paris, je suis Charlie, je suis l'amour e le gratuit. Ipocrisia, portami via e fai di me una malattia. Je suis uomo, non sarei normale, perché la normalità è solo ciò che vuoi vedere. Se fossi un po' più nero ti farei paura, che sparirebbe subito se fosse abbronzatura. Questa vita è una bomba in un campo di fiori, il pennello più nero tra tutti i colori, un rintocco che illude, che ride di noi. Il destino non lo decido, non mica gli eroi. E non piangere amore mio, se vuoi c'è un posto accanto a me. Scrivi ti amo e clicca invio, c'è solo abbondanza di maschere. Je suis Paris, je suis Charlie, je suis l'amour e le gratuit. Ipocrisia, portami via e fai di me una malattia. Je suis sì, lo so, a me mi piace anche se lo vorrei più meglio di ciò che è. Je suis Paris.